Dai Lama, espulso dalla sua terra, come Mosè che per 40 anni seguì la sua stella. Ti scrivo questa lettera con l'inchiostro della speranza di ritrovare un giorno nel mio paese giustizia e tolleranza. Non potevo più respirare il vuoto dentro ai vuoti, banali discussioni, rincorrere palloni gonfiati. Non volevo diventare il riflesso di una statua di marmo. Sono partito per preparare la venuta del nuovo giorno. Il giorno sta arrivando, il giorno del latte e del miele, per i giusti, per chi combatte con il sangue delle proprie vene, che semina tempeste di odio ritornerà nella sua triste dimora, chi ha seminato pace brillerà in ogni storia. Partito senza indugio, oltre le Alpi, partito da una piazza, come tanti goliardi, in esilio dal bitume di una guerra fraticida, in esilio dal silenzio, solo per la mia strada. Chi dà i sogni spago trova la corda per tirare. Avanti, oltre avanti, tutta la luce del sole. Ognuno ha il suo destino, la sua croce da trasportare. Ed io l'ho presa in braccio come una stella da baciare. Il giorno sta arrivando, il giorno del latte e del miele, per i giusti, per chi combatte con il sangue delle proprie vene. Chi semina tempeste di odio ritornerà nella sua triste dimora, chi ha seminato pace brillerà in ogni storia. Un giorno tornerò nella mia terra, quando libererà ogni stella, quando nel cielo ci sarà un profumo di lavanda ed ogni strada sarà un giglio di fiore, in ogni strada una nuova speranza. Un giorno non lontano, almeno spero, il mio paese troverà la forza di rialzare il capo, liberarsi dalle erbacce che hanno sputato sul suo viso, liberarsi da ogni inferno, da ogni falso paradiso. Il giorno sta arrivando, il giorno del latte e del miele, per i giusti, per chi combatte con il sangue delle proprie vene. Chi semina tempeste di odio ritornerà nella sua triste dimora, chi ha seminato pace brillerà in ogni storia. È giunta proprio l'ora, devo andare. Tu stella del mio cielo, non mi dimenticare. Lasciami un bel posto nel tuo animo solare. Per me tu sarai sempre, sempre nel mio cuore.